E torniamo a parlare di formazione, dovremmo farlo con Alyosha, ci senti? Sì, ciao, ciao. Ciao, Alyosha studente di lettere, la facoltà di lettere della Sapienza. Abbiamo già parlato stamattina con un po' di scuole occupate e con un compagno della facoltà di medicina. Volevamo sapere, insomma, quello che stiamo provando a capire, insomma, sono sia da una parte le valutazioni della giornata di ieri, ma anche e soprattutto, visto che appunto il governo sembra effettivamente intenzionato prima della fiducia a far passare il DDL Gelmini, qual è un po' il dibattito all'interno delle facoltà, nei movimenti e nelle assemblee su come continuare la mobilitazione, e appunto visto questa ferma volontà confermata anche ieri dalla Gelmini. Ma innanzitutto, partendo diciamo dalle valutazioni del corteo di ieri, credo che diciamo a un mese dalle prime mobilitazioni, a poco più di un mese dalle prime mobilitazioni sul tema del DDL quest'anno, quando a ottobre, insomma a ridosso del corteo del 16 ottobre, nei giorni precedenti c'era stato il tentativo di far passare il DDL, poi diciamo il governo ha fatto slittare anche sulla spinta dei movimenti e le proteste delle università completamente bloccate dalle proteste anche dei ricercatori, ha deciso di far slittare il DDL anche per assenza proprio dei fondi. Ci troviamo in una situazione abbastanza... Copertura finanziaria che anche adesso, nonostante tutta la volontà politica che ha il governo, non si capisce se ci sta. No, in realtà appunto questo è un tema importante, perché bisogna anche saper rispondere con chiarezza alle dichiarazioni di propaganda di Tremonti, perché le dichiarazioni della settimana scorsa parlano di 1 miliardo di fondi per l'università, che Tremonti cerca di far passare come un rifinanziamento. La realtà è ben diversa. Da una parte è effettivamente vero che sulla spinta dei movimenti, delle proteste, dell'indisponibilità dei ricercatori, il governo è stato costretto a fare un passo indietro rispetto alla 133, dato che questi soldi promessi dal ministro Tremonti non sarebbero previsti secondo l'iter della 133. Dall'altra parte è molto evidente come innanzitutto sono molti meno di 1 miliardo. In secondo luogo sono dei fondi la cui distribuzione è assai problematica, dato l'intensificazione diciamo dei finanziamenti alle università private, e tra l'altro il resto dei fondi non verranno distribuiti a pioggia tra l'università, ma secondo i famosi criteri di merito delle università di qualità. Terza cosa, non si tratta di un rifinanziamento, ma si tratta di tappare i buchi rispetto al fatto che una serie di università avrebbero dovuto chiudere. Insomma, ci ritrovavamo 2 mesi fa in una situazione in cui la Sapienza, e non diciamo l'ultima più piccola università d'Italia, che ha problemi sicuramente rispetto alla situazione di collasso finanziario, sta vivendo molto, molto grossi, ci troviamo col fatto che la Sapienza fra 2 mesi non sapeva come pagare i ricercatori strutturati, non parliamo dei precari, insomma, o di tutte altre diciamo altri aspetti basilari proprio del funzionamento delle strutture universitarie. Bene, questo miliardo quindi è da una parte un passo indietro del governo necessario per tentare anche di spaccare il fronte ai ricercatori attraverso la proposta di Ope Legis, ovvero di passaggio da ricercatore strutturato ad associato di una parte. Tra l'altro le cifre parlano chiaro, si parla di non più di 5.000 ricercatori che nei prossimi anni diventeranno associati senza scatto di stipendio, a fronte di circa 30.000 ricercatori nelle università italiane, quindi un'elemosina è dir tanto. Davanti a questa situazione, anche da parte del governo, evidentemente anche la manovra di Tremonti serviva a compattare il governo stesso in piena crisi rispetto al DDL, dato che anche all'interno del governo su questa questione del DDL non c'era accordo completo, e questo rifinanziamento, o meglio questa promessa di nuovi fondi, serve anche a far sì che il DDL abbia l'appoggio necessario per passare. Quindi la manovra di Tremonti va anche letta così, come un momento di difficoltà del governo sulla spinta dei movimenti, che però punta a far sì che questa miseria, diciamo, promessa, si tratta di 700 milioni a fronte del 1,5 miliardi dell'anno scorso, quindi parliamo veramente di una cifra irrisoria, che però serve per consegnare diciamo in un qualche modo al governo la maggioranza e il Parlamento sul DDL Gelmini. Tornando diciamo a ieri, credo che la prima scommessa che sia stata vinta ieri è quella di riaprire effettivamente uno spazio pubblico di mobilitazione di conflitto non rituale. Era una scommessa su cui in tanti dalle facoltà e anche dalle scuole avevamo cominciato ad investire nelle settimane scorse, ed è una scommessa che io credo vinta, perché ieri effettivamente ci sono stati grossi numeri in tutta Italia, anche al di sopra delle aspettative. C'è stata una grossa, per quanto riguarda Roma, partecipazione a livello universitario, molto grossa anche a partire dalle scuole, quindi come dicevi tu molte scuole hanno occupato, e questo credo sia un elemento molto importante anche per ragionare su come la questione del DDL sia centrale, ma sia centrale complessivamente l'impianto della finanziaria, le politiche di austerity, l'attacco al futuro, diciamo, di un'intera generazione. E questo elemento di comunanza tra le ribellioni di Londra, tra le mobilitazioni di Parigi, tra le lotte che si danno sull'università un po' in tutta Italia e le proteste di questi giorni degli studenti medi e universitari a Roma ieri, ma ovunque in Italia ieri, si è espressa con forza questa trasversalità anche della protesta tra studenti medi, universitari, ricercatori, tanti ricercatori precari che rivendicano anche, diciamo, in un qualche modo un riconoscimento della loro esistenza stessa, perché credo che tutto il dibattito sull'università ha completamente escluso per esempio la dimensione delle migliaia e migliaia di precari dell'università che con il DDL verranno espulsi. Cioè, e verso appunto di questo. E verso la prossima settimana, qual è un po' il dibattito che si sta aprendo dopo all'indomani anche del risultato valutato come positivo, appunto, per riuscire a riaprire uno spazio di movimento, visti i tempi, insomma, che anche assediano gli spazi di discussione e di movimento attorno alle scelte del governo? Ma guarda, nel ragionamento che si sta facendo un po' in tutte le facoltà è quello di investire a partire da lunedì, insomma, ovviamente a partire da oggi, ma sicuramente a partire dall'inizio della prossima settimana, sulla capacità che tutte le facoltà più largo possibile abbiano, in maniera più larga possibile, abbiano la possibilità di diventare dei luoghi assolutamente non pacificati come lo sono stati in questi giorni, di essere dei luoghi di produzione anche di sperimentazioni di altra università, di immaginazione di un altro modo di vivere l'università, e attraverso questo costruire tra il 24 e il 25, lanciare più possibile occupazioni, mobilitazioni, provando a ripetere per il 25 una giornata di conflitto forte. Io credo che la scommessa che si apre dopo la giornata di ieri sia quella di provare a mettere in difficoltà fino in fondo il governo durante la prossima settimana. Si tratta di un governo pesantemente in crisi, si è aperta tra l'altro ufficialmente la crisi di governo rinviata di qualche settimana. La settimana prossima è decisiva, perché il DDL è calendarizzato, come dicevi tu, nell'introduzione, poco fa, è calendarizzata per il 25, quindi il tentativo di questo governo, della Gelmini, di portare a casa questo risultato, evidentemente spinti da Confindustria, dalla CRUI, da una serie di realtà interessate al fatto che il DDL passi. Il governo, sono ormai praticamente quasi 3 anni che cerca di imporre questo DDL, non c'è riuscito grazie alle forze delle mobilitazioni. Adesso si apre una scommessa abbastanza cruciale, perché la prossima settimana credo sia determinante da questo punto di vista. La forza che abbiamo espresso ieri deve essere rimessa in campo tutti i giorni della prossima settimana per provare effettivamente a mettere in crisi il governo su questo passaggio. Alyosha, un'ultima domanda che ti volevo fare. È molto chiaro, insomma, qual è il quadro e anche la sfida che si apre ai movimenti, in università, nelle scuole che si occupano del mondo della formazione e della conoscenza nei prossimi giorni. Ultima domanda, oggi ho letto un po' stupito sulla Repubblica un'intervista di Frati che provava, insomma, in qualche modo in queste ultime settimane, non so se per interessi politici, di equilibri, a cambiare un po' la barra del timone. Diceva che ieri era stato in piazza con i propri studenti, aveva appoggiato la mobilitazione dei propri studenti di fronte anche alla crisi insomma di governo, ma anche insomma dell'apparato in qualche modo di potere che ha sorretto Berlusconi in questi anni. Si stanno riposizionando i rettori, stanno facendo parzialmente marcia indietro come è successo in altre occasioni, non gli sono stati dati, insomma, evidentemente le briciole che volevano. Perché questa posizione di Frati? Ma io la leggo essenzialmente diciamo, da due punti di vista. Da una parte, effettivamente, diciamo, Frati è un rettore molto spregiudicato che in un qualche modo ha la capacità di utilizzare qualunque occasione si presenti come un'occasione di propria visibilità, e quindi tentando in un qualche modo anche di governare, no? la protesta, di renderla compatibile da una parte, dall'altra cercare di utilizzarla per, insomma, quei quattro spicci che ha necessità di avere, dato che, insomma, lo dicevo prima, la Sapienza si trova in una situazione pesantissima dal punto di vista finanziario. Difatti lo statuto che ha approvato Frati va in direzione del DDL Gelmini, che ancora non è approvato. Cerca in tutti i modi di accreditarsi come diciamo un rettore filo governativo che abbia però una sua autonomia rispetto, per esempio, invece a De Cleva, piuttosto che altri rettori in seno alla CRUI, che sono insomma, filo Gelmini è proprio il minimo da dire, sono essenzialmente in linea totale con il ministro Gelmini. Evidentemente è vero quello che dicevi tu rispetto al fatto che dentro, diciamo, questo marasma della crisi politica di un governo che ha avuto una maggioranza enorme in Parlamento e che adesso si ritrova completamente allo sbando, riposiziona, diciamo, anche le varie posizioni. Evidentemente molti, anche i rettori, perché fanno politica effettivamente, guardano anche al dopo, diciamo, al dopo Berlusconi, provando a cercarsi il ruolo più insomma, magari Frati non vuole essere quello che fino all'ultimo ha sostenuto il fatto che bisognava far passare la riforma Gelmini, visto i chiari di Luna. Ma sì, probabilmente a lui va benissimo che la riforma Gelmini passi, e lui chiede un rifinanziamento pure per costituirsi in un qualche modo come un polo in parte anche alternativo agli insomma, ai rettori filo Gelmini, come dicevo prima. È evidente che, insomma, il ruolo di rettore della Sapienza è un ruolo che conta abbastanza, e che quindi Frati sta cercando di utilizzare proprio per riuscire anche ad avere qualche spiccio in più e ad essere una voce in un qualche modo fuori dal coro degli altri rettori. C'è stato anche qualche altro rettore che si è lamentato della stessa posizione della CRUI, e questo è evidentemente sintomo anche della situazione di assoluta complessità e difficoltà che vive il governo, ma anche le università, rispetto alla questione del DDL Gelmini, a cui Frati comunque non si è mai opposto. Le sue dichiarazioni vanno appunto nella luce di tentare anche in un qualche modo di giocare la sua partita dentro il quadro di mobilitazione. Senti, un'ultima domanda. Sabato 20 l'Aquila chiama l'Italia, Roma ha risposto, partiremo con moltissimi pullman da Piazza del Verano, anche pullman partiranno dall'università, e proprio a questo proposito oggi proprio Lettere, se non sbaglio, ospita un momento di discussione col comitato 332 e non solo, a proposito della manifestazione. Anche molti universitari, insomma, verranno, si muoveranno dalla Sapienza verso l'Aquila per rispondere all'appello dei comitati. Sì, diciamo che all'Aquila abbiamo cominciato ad andarci subito dopo il terremoto, partecipando immediatamente, diciamo, ai momenti di solidarietà nei confronti della popolazione dell'Aquila, che ha vissuto una enorme tragedia, come tutti sappiamo. Abbiamo anche costruito, diciamo, una notte bianca all'università per finanziare gli aiuti all'Aquila, per costruire, insomma, dei momenti attivi di solidarietà a partire dal basso. E credo che oggi il nodo, insomma, un po' della questione della shock economy come meccanismo effettivo di controllo sulle popolazioni, diciamo, di costruzione di speculazioni di profitti ai danni delle popolazioni, si sta giocando sotto varie forme. All'Aquila è un elemento assolutamente centrale, anche insomma, che produce giustamente tanta indignazione tra gli studenti, come tra tanti che si ritrovano immediatamente vicini e solidali con chi, per esempio, protesta per entrare nel centro storico, con chi protesta contro la gestione Bertolaso, perché credo che riguardi appieno la questione della qualità della vita, del futuro, delle decisioni della democrazia anche sui territori, cioè dell'autogoverno dei territori, della decisione rispetto alla propria vita. Ed è per questi motivi che insomma, abbiamo seguito con attenzione quello che all'Aquila accadeva, ed è per questi motivi che oggi ospitiamo, tra l'altro non più a lettere, c'è stato uno spostamento che ne approfitto per comunicarlo, l'assemblea sarà a Scienze Politiche alle ore 15 oggi. Inizialmente doveva essere a lettere, sarà fatta a Scienze Politiche, questo pure per comunicarlo a tutti, con Sabina Guzzanti, appunto regista del film Dracula, e Epicentro Solidale, con l'esperienza del 332 dell'Aquila, e ovviamente gli studenti saranno presenti, partendo poi, come dicevi tu, in tantissimi anche da domani, per una manifestazione che crediamo sia una manifestazione che sia importante attraversare, perché possono sembrare piani distinti, ma la mobilitazione contro il DDL per il diritto al futuro riguarda immediatamente anche quello che accade all'Aquila, riguarda in generale il rifiuto da parte di una parte grossa di questo paese delle politiche di speculazione, di sfruttamento, di austerity, di attacco ai diritti e alla qualità della vita di tutti. Ok, io ti ringrazio, sei stato decisamente esaustivo per questa chiacchierata, ormai siamo a più di un quarto d'ora, però insomma abbiamo affrontato tanti temi, ci andremo sicuramente a risentire soprattutto la prossima settimana, magari insomma riportando anche quotidianamente quella che è la mobilitazione e il dibattito insomma attorno alle questioni di cui abbiamo parlato, in particolare l'approvazione del DDL Gelmini. Un abbraccio, in bocca al lupo, ripeto io l'appuntamento a questo punto a Scienze Politiche alle 15 e verso il 20 novembre l'Aquila chiama, Roma ha risposto, anche la Sapienza a questo appuntamento di oggi, Comitato 332, Epicentro Solidale e Sabina Guzzanti. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, ciao. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ciao, ciao. Colle del Fomento, Ghetto Chic, un po' di pausa, un po' di musica, ci andiamo a risentire.